Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Queste sono veramente solo ricostruzioni giornalistiche, come anche la fantomatica, la presunta telefonata con Grillo non c'è mai stata, anzi è molto tranquillo. Io e gli avvocati siamo molto tranquilli, non ho altro da dire. Immagino che tra un po' inventeranno che ho anche ucciso qualcuno, insomma. Così ha detto, l'avete sentita, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai giornalisti che la rincorrevano. Questo è un giornalista del Corriere della Sera. Oggi il Corriere aveva ricostruito una telefonata della sindaca Raggi con Grillo, in cui Grillo era furioso e diceva: mai tradita. Lei diceva: non è vero nulla, tra poco mi si accuserà di aver ucciso qualcuno. Torneremo sulla indagine che vede coinvolta la sindaca di Roma, e poi ci sono moltissimi altri argomenti. Oggi torneremo anche a parlare di Trump, perché da Filadelfia, da dove si trova per il congresso dei repubblicani, ne sta dicendo di tutti i colori. Intanto ha fatto saltare l'incontro col presidente messicano per il muro che deve costruire i confini, che deve innalzare, diciamo, c'è già, dovrebbe innalzarlo ai confini con il Messico, perché dice se lo devono pagare loro. Il presidente messicano naturalmente non ne vuol sapere nulla, e allora Trump ha fatto saltare indignato l'incontro. Ma altre dichiarazioni sta facendo, e quindi ce ne occuperemo, così come anche torneremo sul dibattito politico italiano relativo alla decisione della Consulta di ieri sull'Italicum. Parleremo anche di smog, insomma tantissime notizie. Per i vostri commenti, le vostre osservazioni, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, al quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. E ora via, prima degli approfondimenti, con il riassunto della giornata. Legge elettorale: dopo la decisione della Consulta sull'Italicum arriva alla fondo dei vescovi, la politica si interroghi sui suoi errori. Roma, Grillo difende la Raggi, ha rispettato il nostro codice etico, è un momento difficile, dice, le sono vicino. I PM puntano intanto al giudizio immediato. Berlusconi nuovamente indagato, l'accusa è corruzione in atti giudiziari, continuava a pagare le oggettine. Anno giudiziario, inaugurazione per la prima volta senza la NM che attacca il governo, vuole scegliere i giudici, e il presidente della Cassazione Canzio chiede una legge per tutelare i figli delle famiglie gay. Vaccini, primo accordo tra Stato e Regioni verso una legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni, a Effetto Notte il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi. La tragedia dell'hotel Rigopiano, concluse l'operazione di soccorso, il numero definitivo delle vittime è di 29. La Protezione Civile sottolinea: abbiamo dato prova di un sistema coeso. Stati Uniti, Trump annulla il vertice col presidente messicano per la costruzione del muro, se non pagano, dice, restino a casa, e ordina un'inchiesta sui presunti brogli elettorali. La crisi morde ancora, i giovani italiani si sentono più poveri e tornano da mamma e papà perché pesano affitto e mutuo. La classifica delle città più visitate: Hong Kong al primo posto, seguono Bangkok e Londra, Roma è tredicesima. Partiamo quindi dal dibattito politico che ha fatto seguito alla decisione di ieri della Consulta sull'Italicum. Nella polemica intervengono oggi anche i vescovi. Bacchettata dei vescovi alla politica, sempre più divisa sul dopo consulta per Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale CEI. Ci sono due leggi elettorali frutto del lavoro della magistratura, non è normale, vuol dire che la politica non ha fatto il suo mestiere. C'è poi l'appello del presidente del Senato Piero Grasso a tutti i partiti per trovare l'intesa, non ci possono essere difformità tra Camera e Senato. Intanto continua il pressing del Movimento 5 Stelle per andare al voto. Beppe Grillo scrive una lettera aperta al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il paese è arrivato al limite della sopportazione. Due le strade: sciogliere le Camere o applicare il legalicum al Senato per armonizzare i due sistemi, come suggerito proprio da Mattarella. Dello stesso parere Matteo Salvini della Lega, ma anche Matteo Renzi del PD. Sul fronte opposto il nuovo centrodestra, la minoranza Dem e Forza Italia. Per Pierluigi Bersani non ci sono solo le elezioni ma la vita vera. Silvio Berlusconi attende invece la sentenza della Corte Europea sulla sua candidabilità, ma altri guai sono in vista. È stato di nuovo iscritto nel processo Ruby Ter, l'accusa è che pagava le ragazze. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dalla politica nazionale alla politica romana, la giunta romana, Beppe Grillo si schiera con la sindaca di Roma, Virginia dice adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico, e serena, io non posso che esserle vicino in un momento così difficile. La prima cittadina dal canto suo ha escluso l'ipotesi dell'autosospensione, intanto i PM puntano al giudizio immediato. Torneremo, come vi dicevo, su questa vicenda, così come sul dibattito relativo all'Italicum. Parliamo adesso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, oggi al Palazzo della Cassazione, la prima della storia senza l'Associazione Nazionale Magistrati. Il conflitto tra la giustizia attesa e quella applicata. Talora, anzi, sono lo stesso pubblico ministero titolare delle indagini e talora anche l'avvocato difensore a intessere un dialogo con i media. Stop ai processi mediatici, alla fuga di notizie sulle indagini in corso, più riservo da parte dei PM, più controlli sulle indagini delle procure. Un monito severo quello che arriva dal primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio all'inaugurazione dell'anno giudiziario. La Cassazione chiede poi lo stop alla prescrizione dopo il primo grado, una legge sulle adozioni e i figli delle coppie gay. Perché demandare soluzione ai giudici non è la via preferibile? Ribadisce il no al reato di immigrazione clandestina e contro il terrorismo chiede misure più forti. Approntare un efficace sistema repressivo, fino a configurare gli atti di violenza terroristica come crimini contro l'umanità. Presente anche il ministro della giustizia Orlando che rivendica le azioni del governo. Dovevamo misurarci con tre emergenze: il sovraffollamento carcerario, la carenza di personale, la mole dell'arretrato e i tempi della giustizia. Le abbiamo affrontate. Orlando poi ammette, è indifferibile la riforma del processo penale attualmente ferma in Senato, così come aveva sottolineato anche il presidente della Cassazione, Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La controcerimonia inizia poco dopo, 6 piani più su nello stesso palazzaccio, e aggrava ulteriormente lo strappo istituzionale appena consumato. Usa infatti toni severi che richiamano altre stagioni di scontro l'Associazione Nazionale Magistrati per spiegare perché ha disertato l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del capo dello Stato. Una protesta inedita e clamorosa come il vulnus che a loro dire è stato inferto all'indipendenza delle toghe. Il governo pensa di poter decidere chi deve fare il giudice. Questo non è consentito dalla Costituzione della Repubblica, i governi non possono scegliere i giudici. Snocciola le cifre degli ultimi decreti sul pensionamento dei giudici il presidente dell'ANM Piercamillo Davigo per rievocare l'impegno preso e non mantenuto dal governo di sanare la differenza tra i più che continuano a ritirarsi a 70 anni e le 18 alte toghe a cui invece l'anno scorso è stata innalzata la soglia. Contro l'esistenza di 2 categorie di magistrati l'ANM è pronta a ricorrere in Europa, ma come ha auspicato dal vicepresidente del CSM, lascia comunque aperto un varco per tornare al dialogo. Sabato Davigo e il guardasigilli Orlando saranno entrambi alla cerimonia a Milano, ma solo il 18 febbraio l'ANM deciderà eventuali altre proteste. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi c'è il fronte dei conti pubblici, il negoziato con Bruxelles sulla manovra, se ne è parlato oggi al margine dell'Eurogruppo. Nous avons écrit une lettre avec Valdis Dombrovskis à monsieur Padoan, à Pier Carlo Padoan. Dall'Italia ci aspettiamo una risposta precisa. È cordiale ma determinato il commissario europeo all'economia Moscovici nel commentare l'attesa risposta da parte di Roma alla lettera in cui Bruxelles chiede correzioni per 3.4 miliardi al fine di riportare in carreggiata il deficit strutturale. Moscovici precisa che il dialogo col ministro Padoan anche a Davos è stato fin qui costruttivo, ma ora è tempo di risposte, lascia intendere. E chiarisce, Bruxelles ha già dimostrato che è al fianco dell'Italia e lo sarà sempre, ma le nuove spese per gli ultimi terremoti non entrano nella discussione in corso. Insomma, per la Commissione si tratta di 2 binari paralleli, perché non è tanto la flessibilità sull'emergenza ad essere attualmente sul tavolo, quanto il percorso di risanamento generale dei nostri conti. Replica a distanza Padoan. La risposta della Commissione europea arriverà in tempo, in base alla richiesta della Commissione europea. Sappiamo bene che le spese sui migranti, come le spese sul terremoto, già nella legge di bilancio hanno un trattamento particolare e continuerà a esserci. Padoan definisce fruttuoso l'incontro con la commissaria alla concorrenza Vestager sul dossier banche, mentre non commenta l'operazione Intesa Generali, un'operazione di mercato, si limita a dire. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. I vaccini, incontro tra Stato e Regioni che sono arrivati a un accordo per chiedere una legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni. Sentiremo poi più tardi a effetto notte stasera il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi. Intanto aggiorniamo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, sono state concluse le operazioni di soccorso. Errani, il commissario Errani, rassicura sul decreto per la ricostruzione. La ricerca è finita a Rigopiano, dalle macerie sono stati estratti 29 corpi. Una delle operazioni più complesse che abbiamo mai gestito, ricordano i vigili del fuoco. Un edificio di 4 piani crollato sotto una valanga in uno scenario di terremoto e senza vie d'accesso. Abbiamo lavorato al massimo, dice il capo della Protezione Civile Curcio. Ora è il momento della riflessione. Io credo che noi, partendo da questa esperienza, possiamo ancora una volta, subito dopo, risederci e riformulare quello che in qualche modo dobbiamo fare per ragionare, per rendere ancora più performante il nostro sistema. 11 sopravvissuti, compresi i primi 2 scampati alla valanga, cui si deve quell'allarme caduto inizialmente nel vuoto e per questo sotto indagine. Perlomeno è finita l'emergenza elettricità e il ministro dell'istruzione Fedeli rassicura gli studenti. Andremo in deroga ai 200 giorni di scuola. Gli studenti non perderanno l'anno nell'esame di Stato. Lo si prevederà nel decreto per gli interventi urgenti per le aree terremotate e colpite dal maltempo atteso per la settimana prossima. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero, Stati Uniti. Trump fa saltare l'incontro a Washington con Peña Nieto, il presidente americano, con un tweet scrive: se il Messico non è disposto a pagare per il muro, meglio cancellare l'incontro. Poi il presidente americano ha anche ordinato un'inchiesta sui presunti brogli elettorali durante le presidenziali. La prima ministra britannica Theresa May intanto vola verso gli Stati Uniti con un pensiero: la Gran Bretagna e gli Stati Uniti possono essere ancora una volta alla guida del mondo. Da Londra però nel frattempo ricordano di essere contrari alla tortura. Questa è una polemica che c'è in questi giorni negli Stati Uniti, poi ne parleremo. E anche questa notizia curiosa che riguarda i 007, i gadget sorprendenti usati dalla spia di Sua Maestà, il vero super esperto di tecnologia che fornisce appunto questi gadget high tech e letali a James Bond, nome in codice Q, è una donna. A rivelarlo è stato il capo del MI6, del servizio segreto inglese, in persona Alex Younger, che ha lanciato una campagna per arruolare nuovi agenti nel servizio di sicurezza per l'estero di Sua Maestà. Nei film su 007, dice, il personaggio è sempre stato interpretato da un uomo. Younger invece ha invitato le potenziali reclute, le donne, a non avere stereotipi sulle spie, ricordando che questo tipo di carriera è aperta a tutti, in particolare alle donne, sulle quali l'agenzia vuole sempre più scommettere. Di nuovo in Italia adesso, con la ripresa economica che è ancora debole. Un italiano su quattro si sente povero, quasi la metà delle famiglie non riesce a far quadrare i conti. Ma quello che più colpisce nel rapporto Italia 2017 presentato oggi dall'Eurispes è la situazione dei giovani. Sentiamo il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara. Il fatto che i nostri giovani siano costretti fino a 35-40 anni a stare a casa con i genitori è un fatto assodato. Quei pochi che partono e che tentano di conquistare autonomia e indipendenza sono costretti a rientrare a casa in gran parte perché la loro autonomia e indipendenza si trasforma rapidamente in precariato. E poi in chiusura la classifica delle città più visitate: Hong Kong, Bangkok e Londra sono le tre destinazioni top del mondo secondo i dati Euromonitor International. Sulle 100 città più visitate nella top 10 non ci sono città italiane. Roma è al 13° posto, Milano è la città italiana col maggiore tasso di crescita, in classifica anche Venezia e Firenze. E per chiudere questa notizia che riguarda la musica, la canzone preferita accende nel cervello le stesse regioni dell'LSD. Se attribuiamo un significato particolare a una canzone, un odore, questo accende perché entrano in, questo accade perché entrano in azione nel cervello gli stessi ricettori che si legano alle sostanze allucinogene come le LSD. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Zurigo, che hanno pubblicato i risultati sulla rivista Current Biology. La scoperta potrebbe aiutare a mettere a punto nuove cure per il trattamento di malattie psichiatriche o fobie che causano anomalie nel significato che si dà alle cose. Bene, con questo riassunto della giornata è finito. Tra poco, dopo la viabilità, cominciamo ad affrontare alcuni temi in particolare. Su questi già qualcuno sta scrivendo sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Intanto ringrazio questo ascoltatore Aldo da Caviaga. Mentre c'è per esempio Chiara, che a proposito del presidente della Cassazione Canzio, che ha detto serve una legge per tutelare i figli delle famiglie gay, dice più sarebbe compito del Parlamento legiferare. Se non lo fa lui, la richiesta di giustizia arriva ai tribunali, che a differenza del legislatore non possono cicischiare e devono dare risposte. E poi invece scrive Francesco, quella del presidente Canzio, che dice sarebbe meglio che fosse il Parlamento a occuparsene, dice una frase che sembra perfino ironica: considerato l'impatto culturale e sociale della materia, l'intervento legislativo sarebbe più che doveroso. Continuate, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, ci sentiamo tra breve. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le avete sentite nel riassunto della giornata. Adesso cominciamo tra pochissimo a entrare nel cuore degli argomenti. Intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente Effetto Notte Radio 24 alle 21, quali sono i fatti principali della giornata. Italicum a fondo dei vescovi dopo la decisione della Consulta, dicono la politica faccia il proprio mestiere. Il presidente del Senato Grasso chiede che i partiti trovino un'intesa. Intanto Grillo scrive una lettera a Mattarella. Bruxelles insiste sui conti italiani, le spese del sisma non c'entrano, dico da Roma ci aspettiamo una lettera con risposte precise. Oggi hanno l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il primo presidente della Cassazione, Canzio all'apertura, bacchetta i PM per le fughe di notizie, stigmatizza i processi troppo lunghi e dice, ha poi sollecitato una legge sui figli delle famiglie omosessuali. Berlusconi è ancora indagato, secondo i PM ha pagato le olgettine fino a 2 mesi fa. E poi vaccini obbligatori verso una legge nazionale, l'Istituto Sanità parla di storica intesa, ne parleremo poi più tardi col presidente appunto dell'IS. Rigopiano, la tragedia dell'hotel Rigopiano, estratti tutti i morti, le vittime sono 29, prosegue l'inchiesta e intanto ci sono delle foto che provano che le valanghe ci sono state lì anche in epoca recente. Per quanto riguarda la vicenda di Roma, Grillo difende la sindaca Raggi, dice un momento difficile, le sono vicino. E poi Trump che va allo scontro con il Messico, niente incontro con il presidente messicano, dice se non si pagano loro il muro è inutile incontrarsi. E poi dice con Washington possiamo guidare il mondo. Allora, iniziamo dalla politica italiana, a cominciare dalla tanto attesa decisione della Consulta sull'Italicum che è arrivata ieri. Sapete che la Corte Costituzionale ha mantenuto l'impianto maggioritario della legge elettorale dell'Italicum, ha bocciato però il ballottaggio e le candidature plurime dei capolista. Dunque la legge è formalmente maggioritaria ma sostanzialmente proporzionale. Abbiamo un po' parlato ieri di una questione piuttosto complessa. Comunque è immediatamente utilizzabile. Resta però il problema della non omogeneità tra la legge con la quale si voterebbe per la Camera e quella con la quale si voterebbe per il Senato. Quali sono state le reazioni politiche immediate ieri? Grillo, Renzi e Salvini hanno detto andiamo subito al voto, mentre Forza Italia e Area Popolare chiedono un'armonizzazione di armonizzare le due leggi elettorali, i due sistemi elettorali. Oggi tra l'altro sono intervenuti anche i vescovi, lo avete sentito, che hanno detto insomma non è normale che debba intervenire la magistratura, i giudici insomma sui sistemi elettorali. Ha detto la politica deve farsi un esame di coscienza e capire quali sono i propri errori. E poi un passaggio parlamentare che renda omogeneo il nuovo Italicum al sistema del Senato lo chiedono in tanti, dal presidente del Senato Pietro Grasso fino a Forza Italia, ai partiti minori della maggioranza, passando anche per la minoranza del PD. Allora sentiamo proprio questo passaggio del presidente del Senato Grasso. Il Parlamento si deve pronunciare, certamente, possono essere modifiche brevi, modifiche di breve termine, di breve termine, possono essere modifiche che richiedono più tempo, comunque io sono convinto che ci debba essere un testo parlamentare su cui le parti, i gruppi, i partiti devono concordare. Ne parliamo con Emilia Patta del Sole 24 Ore, buonasera Emilia. Buonasera. Che possibilità ci sono quindi che entro, perché si diceva ieri se non si vota entro giugno si va direttamente al 2018, quindi per trovare un'intesa, per riuscire ad armonizzare queste due leggi, che tempi ci vogliono? La vedi una cosa possibile? È una cosa possibile e neanche tanto difficile se c'è la volontà politica di farla. Se invece, come sembra volere Berlusconi, è un po' una scusa, no, per allungare i tempi della legislatura, rischia di trasformarsi in uno scontro. Per questo il segretario del PD Renzi è molto cauto. E ora tutti, anche nel PD, attendono le motivazioni della consulta, in realtà le motivazioni della sentenza da parte della consulta, perché nelle motivazioni possono essere contenute anche indicazioni sulle eventuali modifiche. A quel punto è più difficile, ecco, esimersi dal farle. Tuttavia il punto vero è non solo il braccio di ferro sulla data del voto, ma anche il fatto che a Renzi, al PD di Renzi, le leggi così come sono di Camera e Senato vanno bene, nel senso che lui non vuole toccare la soglia dell'8% al Senato. Renzi, dici? Renzi, sì. Noi l'abbiamo scritto oggi ed è uno strumento per tenere a bada la sinistra anche del partito, insomma, che se esce si trova avanti questo scoglio da superare per i partiti non coalizzati. Quindi lui crede che questo avrà un effetto maggioritario implicito, perché a quel punto entrerebbero in Senato solo i tre grandi partiti e la Lega in alcune regioni, perché l'8% è su base regionale. E quindi spera in questo modo, avvicinandosi al 40%, se no addirittura superandolo alla Camera, di avere un effetto molto maggioritario anche in Senato. Quindi questo per dire che a Renzi non conviene omogeneizzare le soglie, farle tutte al 3%, per intenderci. Quindi c'è anche questa questione non di poco conto. Quindi ci sarà un ulteriore elemento di contesa, allora, un Emilia. Un ulteriore elemento di contesa. Da parte sua Renzi ha però un'arma che gli hanno lasciato i giudici della Consulta ieri, non indifferente, che è quella di poter scegliere lui i 100 capolista bloccati. E ha già fatto intendere che non ci vuole mettere i bersaniani più duri, insomma. A questo ha anche l'arma delle deroghe alla norma statutaria del PD sulle tre candidature poi a casa, per cui, per fare un esempio, Bersani, Franceschini, Bindi, Finocchiaro, tutti i vecchi parlamentari, se vorranno rientrare in Parlamento, dovranno passare da un voto della direzione su questa deroga. Quindi lui, come segretario del partito, finché rimane segretario del partito, ha vari strumenti, ecco, per indurre a più buoni consigli il partito del voto fra un anno, che è forte anche dentro il PD. Quindi insomma è appena iniziata la battaglia, direi, vedremo. È importante anche la posizione non solo del capo dello Stato, arrivati a questo punto, ma anche del premier Gentiloni, che è vicino a Renzi politicamente, ma si sa che quando uno si insedia a Palazzo Chigi comincia un altro film, fanno due mestieri diversi, quindi bisogna vedere, perché un'azione del genere, andare a votare a giugno, se Gentiloni non è d'accordo, non si può fare. E quindi vedremo come procede questo film. Intanto grazie a Emilia Patta, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Ciao Emilia. Queste sono veramente solo ricostruzioni giornalistiche, come anche la fantomatica, la presunta telefonata con Grillo non c'è mai stata, anzi è molto tranquillo. Io e gli avvocati siamo molto tranquilli, non ho altro da dire. Immagino che tra un po' inventeranno che ho anche ucciso qualcuno, insomma. Io... L'autosospensione, quindi... Stiamo parlando di ipotesi che al momento non sono neanche reali. Io direi di procedere un passo alla volta, la procura mi ha chiamato, andrò a rispondere come è giusto che sia e poi sarà la procura a decidere. Queste dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma, ci portano allora al tema dell'indagine che la coinvolge. Sapete che risulta indagata per abuso d'ufficio e falso nell'inchiesta relativa alla nomina a capo del Dipartimento del Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele Marra, ex capo del personale del comune poi arrestato, ex braccio destro di Virginia Raggi e a sua volta indagato poi in questa inchiesta. Nel frattempo il Corriere oggi aveva dato notizia di una telefonata intercorsa tra Raggi e Grillo in cui Grillo sarebbe stato furioso, le avrebbe detto mi hai tradita, lei smentisce come avete sentito e lo stesso Grillo dice che insomma la difende, che Virginia ha adempiuto ai doveri secondo il codice etico del Movimento 5 Stelle e Serena dice io non posso che essere vicino in un momento molto difficile. Manuela Perrone del Sole 24 Ore, buonasera Manuela. Buonasera Roberta. Quindi hai sentito che cosa ha detto Virginia Raggi? Prima o poi ci sono cose false, prima o poi mi accuseranno di aver ucciso qualcuno. Qui c'è un doppio piano. Un piano è una ricostruzione che potrebbe essere stata esagerata, ma dall'altro c'è un fatto, è vero che Grillo e Raggi si sono sentiti, è vero che si stanno sentendo spesso per ovvi motivi, è vero che Grillo certo non è felice della situazione che si è venuta a creare, però non è vero che la abbandonano al suo destino. Perché politicamente sostenere Raggi è ritenuta in questa fase una via obbligata. La strategia che i vertici del movimento Grillo, ma in particolare Davide Casaleggio, stanno cercando di portare avanti è quella di arrivare alla data delle elezioni politiche con la sindaca di Roma ancora in sella. Tra l'altro lei sarà interrogata il 30 gennaio, quindi tra 4 giorni, Emanuela, no? Breve. Sì, ed è una data importante perché in quella data avrebbe potuto chiedere il patteggiamento almeno per il reato di falso, per non incorrere nella sospensione di 18 mesi che poi è prevista dalla legge Severino in caso di condanne, ma l'ipotesi del patteggiamento è completamente esclusa, perché il codice etico del Movimento 5 Stelle prevede che anche in caso di patteggiamento l'eletto sia fuori dal movimento, e quindi in quel caso si accelererebbe, come dire, l'addio al movimento e la perdita del simbolo. Quindi lei ha escluso il patteggiamento, andrà direttamente al 30 gennaio a questo interrogatorio. Andrà all'interrogatorio e poi aspetterà le mosse della procura. A quel punto si ragiona sulla possibilità, si tenta di prendere tempo, la strategia è prendere tempo, guadagnare qualche mese in attesa appunto anche del rinvio a giudizio. Pare che l'intenzione sia quella di sostenerla anche in caso di rinvio a giudizio, sempre come prevede il codice etico, bisogna ricordarlo, e poi davanti a un'eventuale condanna, se e quando sarà, lì la strada è obbligata, cioè bisogna, non sarebbe più nel Movimento 5 Stelle, quindi comunque il Movimento 5 Stelle perderebbe la capitale d'Italia. Non poca cosa. Tra l'altro oggi si è fatta sentire comunque una certa amarezza la sindaca di Quarto, lo ricordate, espulsa a gennaio. Sì, Rosa Capuozzo, espulsa dal movimento a gennaio 2016 perché era coinvolta in un'indagine e non aveva obbedito al diktat di dimettersi, no? del direttorio allora, nel gennaio 2016. Le ha detto due pesi e due misure, ha fatto notare, dice. Ha fatto notare la differenza di trattamento, si è sfogata, ha detto il movimento di oggi è lontano dalla base, e non a caso ha colto l'occasione anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, forse diciamo il dissidente e forse la perdita più pesante per il Movimento 5 Stelle, perché è un sindaco amato e stimato. E che anche si ricandiderà da molti, tra l'altro. E no? Che si ricandiderà, esatto, e anche lui ha sostenuto che la base è completamente sfaldata. Grazie Manuela Perrone, buon lavoro anche a te. Ciao Manuela. Ciao Roberta. Ciao. Ci prendiamo allora adesso questa pausa, prima poi di tornare sugli altri argomenti con gli altri ospiti. Ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice, per esempio, cosa succede, dice Alberto, se nessuna coalizione raggiunge il 40%, visto che non si farà il ballottaggio. E poi invece dice qualche ascoltatore, basta parlare male di Trump, ne parleremo tra poco, anche di Trump, che lì da Philadelphia sta facendo dichiarazioni a tutto andare. Questo tra poco. 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Vien Parlando. Sottotitolo I Mesi della Prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno allora dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Proseguiamo quindi con le notizie e con gli approfondimenti. Il riassunto l'avete sentito all'inizio, ma come sempre, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo tra poco i fatti principali. Per i vostri interventi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure sul numero per WhatsApp e SMS che è il 349-238-6666. Diceva l'ascoltatore Alberto, cosa succede se nessuna coalizione raggiunge il 40%, visto che non si farà il ballottaggio, bocciato ieri dalla Consulta? È probabile che a un certo punto si debba andare alle larghe intese per fare il governo. Comunque aspetteremo le motivazioni, vedremo se ci saranno delle modifiche alla legge elettorale fuoriuscita, diciamo, da questa decisione della Consulta. Insomma, si diceva prima, il film deve ancora proseguire, ci saranno ancora dei passaggi, vediamo se ci sarà anche un passaggio parlamentare. Comunque adesso cambieremo argomento, parleremo di smog, che purtroppo interessa soprattutto il nord, la pianura padana. Oggi Milano vista dall'alto sembrava veramente Pechino, come si vede in modo orrido spesso, no? Che si dice Madonna, Pechino è una nuvola di fumo, di inquinamento, come faranno a respirare. Non era molto diversa oggi la pianura padana, ma vi ricordo prima di tutto quali sono i fatti principali della giornata. Legge elettorale, dopo la decisione della Consulta sull'Italicum arriva l'affondo dei vescovi, la politica si interroga sui suoi errori, dicono. Roma, Grillo difende Raggi, ha rispettato il nostro codice etico, è un momento difficile, le sono vicino. I PM intanto puntano al giudizio immediato. Berlusconi nuovamente indagato, l'accusa è corruzione in atti giudiziari, continuava a pagare le olgettine. Anno giudiziario, inaugurazione per la prima volta senza l'ANM che attacca il governo e dice vuole scegliere i giudici, e il presidente della Cassazione Canzio chiede una legge per tutelare i figli delle famiglie gay. Vaccini, primo accordo tra Stato e Regioni verso una legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni, effetto note, tra poco raggiungeremo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi. La tragedia dell'hotel Rigopiano, concluse le operazioni di soccorso, il numero definitivo delle vittime è di 29. La Protezione Civile sottolinea: abbiamo dato prova di un sistema coeso. Stati Uniti, Trump annulla il vertice col presidente messicano per la costruzione del muro, se non pagano dice restino a casa. La crisi morde ancora, i giovani italiani si sentono più poveri, tornano da mamma e papà perché pesano affitto e mutuo. La classifica delle città più visitate: Hong Kong al primo posto, segue Bangkok e Londra, Roma è tredicesima. E forse quelle città se la cavano meglio, per esempio, di Milano, a proposito di inquinamento, perché di questo adesso parliamo, dell'emergenza smog a Milano e in Lombardia. Non piove, non c'è vento. Guido Lanzani, responsabile della qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia. Buonasera. Buonasera. Questa qualità com'è? Mi è sembrata piuttosto terrificante. Che dice? Sono un po' pessimista? Diciamo sicuramente in questo momento sono superati i livelli che invece dovremmo rispettare. Il PM10 supera la soglia prevista dall'Unione Europea. Devo dire che però la situazione è sicuramente migliore di quella che respiravamo anni fa e anche, per la verità, di quella che si respira in altri paesi del mondo. Cina compresa, in primis, no? Come dicevamo prima, ma questo è confortante. Senta, meglio di, ecco, spesso sento dire si respira meglio di prima dagli esperti, nel senso che per esempio quando si usava il carbone o delle caldaie, prima erano molto più inquinanti, no? C'erano più fabbriche probabilmente vicine alla città o in città, è questo che dice Lanzani? Beh, sì, diciamo che nel corso degli anni è migliorato sicuramente l'emissione del riscaldamento, il carbone non si usa sostanzialmente più se non in pochissimi impianti, le auto sono migliorate perché non sono forse ancora quelle che vorremmo, però certamente un'auto oggi inquina molto meno di quella di una volta, ormai dal tubo di scappamento di un'auto Euro 6 esce poco PM10, esce forse più dai freni e dall'usura dei pneumatici. E poi anche le industrie oggi emettono meno a parità di prodotto, e dall'altra parte forse purtroppo alcune si sono spostate o sono chiuse, insomma. Comunque sono intanto a Milano scattate le misure, no, per l'aria, temperature vedevo a 19 gradi devono essere tenute, parziale stop per gli Euro 3 diesel senza filtro, per i mezzi Euro 0 e benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel. Si ricorda però che anni fa dicevano che il diesel doveva essere la soluzione per l'inquinamento, invece pare che inquini non poco il diesel. Sì, certamente, Euro 6 meno, però il diesel inquina certamente di più di un'auto a benzina. È migliore dal punto di vista della lotta ai cambiamenti climatici, perché con un litro riusciamo a fare più chilometri, però dal punto di vista della qualità dell'aria delle nostre città purtroppo invece è peggio. Dicevo, questo problema interessa molto Milano, ma un po' tutta la pianura padana, proprio per la sua conformazione. Sì, certamente, il problema non è solo di Milano, il problema è di tutto il bacino padano, perché purtroppo la presenza delle Alpi e degli Appennini chiude in qualche modo tutto il catino, un po' come in una stanza senza finestre, le emissioni rimangono tutte confinate. E secondo lei, Lanzani, che misure andrebbero prese, a parte queste già attuate? Ma ci sono tutta una serie di misure che sono già in parte state prese, in parte sono previste dai piani di risanamento che le regioni hanno messo in atto, che cercano un po' di migliorare tutti i comparti, perché purtroppo l'inquinamento atmosferico non si risolve con un singolo intervento che abbassa un po' tutti i livelli di inquinamento. Bisogna agire anche sul riscaldamento, in particolare a legna. Lei ricordava prima i provvedimenti, in questo periodo ricordo anche che non si può usare la stufa a legna se si ha in casa un altro sistema di riscaldamento, se non è delle migliori, quindi se non è almeno 3 o 4 stelle. Dopodiché, meno auto circolano sicuramente meglio è, più auto nuove abbiamo sicuramente meglio è, bisogna continuare nella lotta anche con l'agricoltura, perché non sembra, ma anche l'agricoltura può contribuire ai livelli di inquinanti che respiriamo, perché in atmosfera tutto si mescola, rimane tutto confinato e quindi anche le emissioni che magari abbiamo nella pianura lontano dalle case alla fine si mescolano con sostanze messe altrove e danno i problemi anche nelle città. E quindi noi che viviamo nella pianura padana corriamo anche più rischi per la salute, immagino, no? Pare abbastanza automatico. Sì, certo, purtroppo ci preoccupiamo di queste sostanze perché sono dannose per la salute. Insomma, speriamo che almeno arrivi qualche pioggia, Guido Lanzani, nei prossimi giorni, che sappiamo sempre, no? Aiuta un po' ad abbassare i livelli di inquinamento, anche un po' di vento. Sì, la meteorologia, come la presenza delle Alpi, diciamo, è uno dei fattori che non si può eliminare. Quando piove, quando c'è vento, i livelli riescono a scendere. Chiaramente l'altro fattore su cui agire, come diciamo prima, è la riduzione delle emissioni, invece che in mano in qualche modo nostra. Chiaro, in attesa di quelle faremo una danza della pioggia allora. Grazie Guido Lanzani, ripeto, responsabile della qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia. Grazie e buona serata. Grazie a voi, buonasera. Grazie. E adesso parliamo di vaccini. Ormai l'avrete sentito tutti parlare da tempo di questa annosa polemica sulle vaccinazioni, vaccinazioni obbligatorie, vaccinazioni utili, non utili, per qualcuno dannose. Insomma, questo contrasto che dura da tanto tempo tra la gran parte della comunità scientifica e i detrattori dei vaccini. Ieri c'è stato un incontro tra la ministra della Salute Beatrice Lorenzin e gli assessori delle regioni e delle province autonome per la verifica dell'avvio del piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019. Nel corso di questo incontro sarebbe stato raggiunto un accordo in questa direzione, la direzione delle vaccinazioni obbligatorie. Sapete che già alcune regioni, mi viene in mente la Toscana e l'Emilia Romagna, che hanno già varato proposte di legge in questa direzione di obbligare alla vaccinazione tutti i bambini che arrivano al nido e alla materna. E ha parlato di accordo storico il presidente dell'Istituto Nazionale di Sanità Walter Ricciardi, che adesso è in collegamento. Professor Ricciardi, buonasera. Buonasera. Quindi è un passo importante, lei dice, sul fronte della tutela della salute, questo? Sì, è un passo importantissimo perché è un accordo all'unanimità di tutte le regioni con il Ministro della Salute nella direzione di eliminare quella confusione che molto spesso hanno i cittadini tra vaccinazioni raccomandate e vaccinazioni obbligatorie. Quindi l'accordo è perché si metta in moto un meccanismo legislativo, perché come nelle regioni che lei ha citato, in tutto il territorio nazionale, quindi la legge nazionale, per rendere tutte le vaccinazioni eticamente, scientificamente, già lo sono, ma anche legalmente obbligatorie per l'accesso alla scuola materna. È veramente un momento storico per il nostro Paese. Quindi questo passo è intanto questo accordo tra Stato e Regioni, tra il Ministero della Salute e le Regioni, e poi quindi si attende a questo punto una legge nazionale che ratifichi definitivamente che una serie di vaccinazioni sono obbligatorie? Sì, ma ho già ricevuto abbiamo già ricevuto alcune reazioni, per esempio della Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, la senatrice De Biasi, che ha già risposto entusiasticamente, ha detto che il Parlamento è pronto a questo tipo di passaggio. È chiaro che a questo punto il Ministro della Salute, ma ripeto, con un accordo pieno all'unanimità con tutte le regioni, si potrà muovere in questo senso. Come mai, le chiedo, professor Ricciardi, per esempio Codacons, una delle associazioni a favore dei consumatori, per la difesa dei diritti dei consumatori, dice che è pronto alla guerra legale contro una possibile legge nazionale per rendere obbligatorie le vaccinazioni, per bloccare, dice il presidente di Codacons, un'iniziativa che è una violenza nei confronti delle famiglie. Lei come risponde a una obiezione di questo tipo? Ma non vorrei rispondere, bene chiedere a loro. Io posso soltanto dire che le posizioni che oggi mettono a rischio la salute di migliaia di bambini non vaccinati non sono basate sull'evidenza scientifica, credo neanche sull'etica e sull'interesse dei cittadini più deboli che non possono decidere. Quindi credo che invece questa scelta da parte dello Stato e delle regioni è veramente una scelta improntata alla migliore evidenza scientifica, all'etica della responsabilità e all'interesse dei cittadini. Secondo lei, professor Ricciardi, per chiudere, in che tempi potrebbe arrivare questa legge nazionale che rende obbligatorie le vaccinazioni? È chiaro, si sa, i tempi dei processi legislativi in Italia non sono mai brevi, però mi pare di dire che questa volontà forte da parte delle principali istituzioni dello Stato, appunto il governo, le regioni, e dalle prime reazioni sento anche il Parlamento, sono di buon auspicio. È chiaro che da parte nostra ci sarà tutta la disponibilità a supportare con evidenze scientifiche questi passaggi. Grazie professor Walter Ricciardi, ricordo presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme, sino alle 22, come sempre, Roberto Giordano con voi. Vedevo i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Tantissimi sono stati gli argomenti questa sera, però questo messaggio dice: bisogna passare alle macchine elettriche. Le macchine elettriche, insiste questo ascoltatore. So che grandi case automobilistiche stanno investendo per i prossimi anni sulle macchine elettriche, però per il momento ancora è prematuro. Se guardiamo il parco macchine che circola in Italia e non solo. Poi invece dice questo altro ascoltatore, tornando sulla politica, vediamo se riesco ad aprire questo messaggio. Massimo dice: credo che le determinazioni della Consulta abbiano poco senso fin quando un qualsiasi governo con la sua semplice maggioranza potrà cambiare la legge elettorale secondo le sue esigenze del momento, anche pochi mesi prima della tornata elettorale, come accadde ai tempi del famoso Porcellum, dal quale dopo tutto l'attuale impasse traeva origine. Bene, adesso vi ricordo i fatti principali per chi avesse acceso la radio adesso anziché puntualmente le 21, poi andiamo sugli altri temi. E sono l'Italicum sul quale anche i vescovi intervengono e dicono: la politica faccia il suo mestiere e rifletta sui propri errori. Il presidente del Senato Grasso dice: i partiti devono trovare un'intesa. Grillo scrive una lettera aperta a Mattarella. Poi Bruxelles insiste sui conti pubblici italiani, le spese del sisma non c'entrano. Da Roma ci aspettiamo una lettera con risposte precise, sottolinea il commissario Moscovici. E poi Canzio, il presidente della Cassazione, ha aperto l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha bacchettato la fuga di notizie da parte dei magistrati e poi ha sollecitato anche per una legge sui figli delle famiglie omosessuali. Vaccini, ne abbiamo appena parlato, si va verso una legge nazionale che li renda obbligatori, almeno da questo primo accordo tra governo, tra Ministero della Salute e Regioni. E poi Rigopiano, estratti tutti morti, le vittime sono 29, prosegue l'inchiesta. Grillo difende la sindaca Virginia Raggi, a proposito di questa inchiesta in cui coinvolta, dice: un momento difficile, le sono vicino. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Ben trovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Cosa hanno in comune un astronauta francese, un satellite che fornisce un sistema di navigazione, il lanciatore Ariane? Sono programmi spaziali che puntano a raggiungere l'eccellenza europea. Fa tutto parte del fenomeno Space 4.0. L'1.0 è l'astronomia, il 2.0 è la corsa allo spazio, il 3.0 rappresenta più o meno la situazione attuale, con un certo grado di cooperazione internazionale. Ma Space 4.0 ha come obiettivo commercializzazione e partecipazione. Si tratta di sfruttare tutto il potenziale dello spazio a sostegno di lavoro e crescita. Ne parliamo con l'europarlamentare Flavio Zanonato. Qual è il futuro dell'esplorazione dello spazio e le sfide per le politiche spaziali dell'Unione Europea? Io penso che in questo momento la cosa fondamentale è comprendere che questo tipo di ricerca è assolutamente importante per l'insieme delle ricadute che ha in tutti gli altri campi che interessano le attività produttive e le attività di ricerca scientifica del nostro continente. Si pensi al problema dei materiali, al problema delle trasmissioni, al problema dello scudo che si deve realizzare contro i raggi cosmici. Ci sono infinite questioni che si aprono e che possono essere risolte con la ricerca che è collegata allo spazio. Come si sviluppa il rapporto con il settore privato, cioè come collaboreranno istituzioni e aziende del settore? I privati sono coinvolti pienamente in questo tipo di attività, non c'è una preferenza per il settore pubblico. A volte gli investimenti sono tali e i ritorni non sono in tempi sufficientemente rapidi, per cui sono gli enti pubblici più interessati a sviluppare questo tipo di ricerca. Poi va ricordata una cosa abbastanza curiosa, che uno dei grandi protagonisti industriali di questo periodo, che è il fondatore della Tesla, l'auto interamente elettrica, ha annunciato un proprio filone di attività per arrivare su Marte. Vediamo cosa sarà in grado di fare, sono curioso come tutti, ma è un privato che si propone addirittura con una missione di centinaia di persone di arrivare sul più vicino dei nostri pianeti. L'Italia che ruolo gioca in questa partita? E intanto l'Italia è all'avanguardia in molti dei settori collegati alla ricerca spaziale. Sicuramente è all'avanguardia nel campo dell'astronomia, sicuramente è all'avanguardia nel campo di alcuni particolari vettori che portano in orbita i satelliti, è all'avanguardia nell'attività per promuovere la nuova rete di satelliti che chiamiamo Galileo, che sostituirà o si affiancherà al GPS, che è americano, quindi può svolgere un ruolo fondamentale. E dipenderà anche da non solo dalle capacità dei nostri ricercatori, che ritrovo praticamente in tutti i centri di ricerca europei, con ruoli di grande prestigio, di direzione, dipenderà anche dalla capacità dello Stato, nostro, del governo, di finanziare attività di ricerca. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Oh, e adesso prendo spunto da questa agenzia che vedo in questo istante uscita per trasportarci negli Stati Uniti. Trump annuncia una tassa del 20% sull'import dal Messico per pagare il muro. Siccome è una cosa, sono dichiarazioni che naturalmente l'aveva annunciato in campagna elettorale, poi anche una volta che si è insediato, ma se ne parlava moltissimo oggi, perché oggi Donald Trump ha deciso di annullare l'incontro che doveva avere col presidente messicano, perché il presidente messicano comprensibilmente ha detto no, non lo voglio pagare io il muro che vuoi fare tu, questo innalzamento del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, e quindi indignato Trump ha detto ah sì, se non pagate il muro statevene a casa vostra, e quindi ha annullato questo incontro con il presidente messicano. E adesso viene fuori questa notizia che vorrei commentare con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco. Esatto, qui Trump diciamo ci coglie ancora una volta quasi in contropiede e annuncia così una escalation della guerra commerciale, e stando alle dichiarazioni, e poi vedremo se verranno corrette interpretate come, ma potremmo essere alla vigilia di un progetto di guerra commerciale totale, guerra commerciale nucleare, Stati Uniti contro il mondo, perché il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer, che ha dichiarato che ormai Trump ha deciso di mettere NAFTA o non NAFTA, un'importazione, una tassa sull'import dal Messico del 20% che pagherà il muro e ben altro, perché ha detto che raccoglierà almeno 10 miliardi di dollari in un anno, come il muro secondo loro costerà più o meno quello, anche se magari dovrebbe costare forse il doppio, ma comunque ci saranno soldi per tutti nell'amministrazione Trump. Ma non ha detto solo questo, ha detto che Trump in realtà vorrebbe imporre una tassa del 20% sulle importazioni da tutto il mondo, solo dal Messico, da tutto il mondo. Così il muro si fa in 448, il muro si fa in 448. Così, altro che muro si costruisce, voglio dire, probabilmente... Quante Trump Tower potrebbero essere costruite con queste tasse sull'import, con le tasse sui prosciutti, con le tasse sul parmigiano reggiano, eccetera, eccetera. Forse Trump ha trovato veramente una miniera d'oro, l'idea geniale di come fare un sacco di soldi e costruire veramente una grande America. Una roba mai vista, veramente. Fortunato tu che sei lì negli Stati Uniti. Tra l'altro oggi Trump è complimenti, se non fosse un presidente potrebbe essere un gran comico, ma sicuramente, ma purtroppo è un presidente. Allora, Marco, oggi Trump è al raduno repubblicano a Filadelfia, ci sono state molte proteste in piazza contro l'abolizione dell'Obamacare, no? Del sistema sanitario, di quella piccola riforma che in qualche modo era riuscito a fare Obama e che lui ha subito cancellato, no? Con un decreto appena si è insediato. C'è lì però anche la prima ministra Theresa May, no? Se non sbaglio. Assolutamente, già arrivata, parla, ho parlato diciamo oggi questa sera ai repubblicani riuniti con Theresa May. Chiaramente così l'ambizione di entrambi è un po' di rinverdire la gloria degli anni che forse qualcuno diciamo di una certa età come me si ricorderà, gli anni di Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Ecco, se i due personaggi siano diciamo di quel calibro resta ovviamente da dimostrare, da vedere. Però ma sicuramente l'ambizione è quella. Cioè, la May ha detto oggi possiamo fare cose grandi insieme, però ha sottolineato siamo contrari alla tortura, perché su questo argomento è ritornato Trump ancora un po' ambiguo sul fatto di cambiare dei metodi della CIA negli interrogatori oppure no, ancora c'è un punto interrogativo. Ma noi ci dobbiamo a questo punto lasciare, caro Marco Valsania, tanto anche qui le puntate continuano, non solo di Effetto Notte ma anche delle dichiarazioni e degli interventi anche di Trump estremamente attivo. Grazie Marco Valsania. Ciao a Marco. Voi, grazie a voi. Noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.